in primo piano. Buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli, ben trovati alla rassegna stampa dei quotidiani italiani di Radio 24. Cominciamo subito, non abbiamo tanto tempo oggi, dai titolo del Corriere della Sera. Come potrete immaginare, tutti i quotidiani titolano sulla notizia che avete sentito nel GR della nomina di Federica Mogherini, il nostro attuale ministro degli esteri. Poi probabilmente ci sarà un rimpasto di governo e non sarà più ministro degli esteri in Italia, però è diventata nella sostanza al ministro degli esteri dell'Unione Europea, tecnicamente l'alto rappresentante per la PESC, che è l'acronimo di politica estera e sicurezza comune, quindi un modo un po' lungo per dire ministro degli esteri europeo. Il titolo quindi del Corriere, gli esteri d'Europa all'Italia, con un commento di Antonio Armellini, un ruolo in divenire con alcune insidie, perché la sfida, come del resto la stessa Mogherini ha ammesso, è la sfida per l'Unione Europea, che negli ultimi tempi è stata accusata in tutte le crisi internazionali di non avere una posizione o comunque di non riuscire a far sentire la sua voce. Bene, il ruolo dell'Unione Europea potrebbe cambiare, potrebbe essere decisivo, è un momento veramente, anche se vogliamo, difficile ma favorevole per dimostrare che l'Unione Europea può appunto avere un ruolo sullo scacchiere internazionale. La fotonotizia è dedicata al Festival di Venezia, con Al Pacino tra le sue due donne del momento, diciamo, cioè la compagna argentina Lucila Sola e la figlia di Lucila, Camila. Sono stati fotografati ieri al Lido, Al Pacino e a Venezia, con due film, uno in concorso e uno fuori concorso. Il Sole 24 Ore titola Tusk, perché è un polacco, è il premier polacco, guida il Consiglio dell'Unione Europea, Mogherini è Lady PESC. Tra l'altro, l'altra notizia, ieri sul tavolo a questo vertice di Bruxelles sono stati tantissimi temi discussi, tra questi c'era anche l'Ucraina, e sono state decise sanzioni più dure dell'Europa contro Mosca. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo due interventi, uno di Alberto Quadro Curzio, che riguarda ancora il decreto sblocca Italia presentato due giorni fa, e in particolare quei rinvii che ci sono state, perché tante sono le misure annunciate, ma ci sono anche stati alcuni rinvii. E allora Quadro Curzio si concentra in particolare sulle misure annunciate ma non ancora concrete sugli immobili e quelle sulle partecipate. Ne abbiamo parlato anche ieri, questo immenso universo malato delle aziende partecipate, che sono oltre 1000, una su 4 è in perdita, avrebbero dovuto già essere toccate, invece è stato tutto rimandato. Come ogni domenica, l'intervento dell'arcivescovo di Chieti Vasto, Bruno Forte, il nuovo nemico dell'umanità, il fondamentalismo della barbarie moderna, inizia in prima pagina, continua a pagina 14. E poi vi segnalo anche la trascrizione dell'intervento che Sergio Marchionne ha fatto ieri al meeting di Rimini, dove appunto ha detto basta con i gelati, e qui è in un certo senso divertente vedere come questa frase, se buttata lì così, poteva quasi sembrare una critica a Renzi. In realtà quello che veramente Marchionne critica è l'atteggiamento dell'Economist, cioè di raffigurare l'Italia come un paese di gelatai, quella famosa copertina con Renzi con il gelato in mano. Dice Marchionne, infatti, il succo dell'intervento, lo avete sentito anche nel GR, io continuo a avere fiducia nel Premier, che sicuramente vuole cambiare l'Italia, però basta con questa immagine, sono veramente stufo di questa immagine che abbiamo all'estero di paese appunto di gelatai. Poi c'è il solito approfondimento della domenica a cura di Vittorio Carlini, La lettera al risparmiatore. Sapete, ogni domenica il nostro collega della redazione di Finanza sceglie un titolo quotato e cerca di spiegare quali sono i vantaggi o gli svantaggi di investire in questo titolo. Quello che ha scelto oggi è la World Duty Free. Il titolo è La sfida a rilanciare la redditività in rialzo i ricavi. World Duty Free è una società nata dalla scissione da Autogrill nell'ottobre del 2013, ed è una società che gestisce appunto il retail aeroportuale, e sicuramente è molto grande, ha ricavi per oltre un miliardo. La Repubblica, UE, Mogherini è la nuova Lady PESC, e tra l'altro Renzi ha poi anche parlato di flessibilità del lavoro, perché sapete che adesso nella tabella di marcia del governo c'è anche il famoso Jobs Act, di cui sapremo qualcosa nei prossimi giorni. La fotonotizia è di Matteo Renzi, che abbraccia Federica Mogherini dopo l'annuncio definitivo, la conferma definitiva della scelta appunto del nostro ministro degli esteri come ministro degli esteri dell'Unione Europea. Ieri, forse lo ricorderete, abbiamo segnalato che da intercettazioni fatte a Totò Riina in carcere è saltato fuori che da queste intercettazioni tra Totò Riina e un boss pugliese che Riina dava dei soldi a Berlusconi, tutto da dimostrare, naturalmente sono intercettazioni. Oggi ci sono altre intercettazioni, questa volta le pubblica la Repubblica. In questo caso le minacce di Totò Riina riguardano invece Don Luigi Ciotti e appunto sempre in alcune conversazione dice possiamo pure ammazzarlo. Trovate l'articolo poi a pagina 19. La stampa Europa primo round a Renzi con un commento di Gianenrico Rusconi, ora serve veramente una politica comune. La fotonotizia però è dedicata al calcio, ieri è iniziato il campionato e la Juventus ha vinto, quindi siccome naturalmente tutti aspettavano questa nuova Juventus post Conte, il campionato riparte dalla sfida Juve-Roma, i bianconeri battono il Chievo, i giallorossi rispondono superando 2-0 all'Olimpico la Fiorentina e le foto sono dei giocatori che si abbracciano. Ma vi segnalo anche l'intervento di Benedetto Della Vedova, che è sottosegretario agli esteri, che spiega perché dal suo punto di vista è giusto legalizzare e tassare la marijuana. Attenzione, non liberalizzare, perché di fatto la marijuana è liberalizzata, anche insomma chi sa dove comprarla può comprarla. Legalizzarla naturalmente sarebbe altra cosa. E per Benedetto Della Vedova, non solo per fini terapeutici, legalizzarla perché così si toglierebbe sostanzialmente. È un argomento di tutti quelli che vogliono legalizzare non solo la marijuana ma anche altre droghe, si toglierebbe un'importantissima fonte di reddito alla criminalità organizzata. Il messaggero all'Italia, agli esteri dell'Unione Europea, qui la fotonotizia, mentre quella della stampa vede l'esultanza sia dei giocatori della Roma che di quelli della Juventus, qui invece c'è soltanto l'esultanza dei giocatori della Roma. La Roma fa subito festa, due gol alla Fiorentina. Vi segnalo però sul messaggero anche un'intervista a Paolo Buzzetti, presidente dell'ANCE, cioè i costruttori, che dice lo sblocca Italia, tutto sommato ha delle misure timide, serve una scossa molto più forte per rilanciare il nostro settore. Sapete quanto sia in crisi in generale l'immobiliare, continuano a scendere le quotazioni degli immobili, vengono costruite sempre meno case, è un settore trainante di quelli che poi si porta dietro un indotto molto importante, quindi farlo ripartire è una di quelle, probabilmente una di quelle famose misure che rimetterebbe in moto la crescita del paese. L'Avvenire, monito UE a Mosca e quindi e Mogherini Lady Pesk, quindi l'Avvenire dà più importanza a questa decisione di inasprire le sanzioni dell'Unione Europea a Mosca, perché sapete che lì la NATO ha pubblicato le foto dei blindati russi. Putin ha negato che ci sia questa invasione. Invasione forse è una parola esagerata, però di fatto la situazione non è tranquilla e la Russia continua. La questione tra Russia e Ucraina non è risolta. Sapete, 2 giorni fa l'Ucraina addirittura ha chiesto di entrare nella NATO per avere appunto la protezione dell'ombrello NATO dalla Russia e ora invece l'Unione Europea si muove con nuove sanzioni economiche che tra l'altro sono un grosso problema poi perché la Russia ha già risposto alla prima ondata di sanzioni economiche a sua volta con sanzioni contro i prodotti dell'Unione Europea, particolarmente colpiti anche in Italia, è stato per esempio il settore dell'agroalimentare ma anche il settore della moda. E la fotonotizia è dedicata all'Iraq, una delle tante guerre di cui i giornali si occupano ma tutti noi forse colpevolmente ci occupiamo un po' a intermittenza. Iraq scatta la riconquista Califfato e trovate il reportage a pagina 13 perché anche lì la situazione è fluida, c'è l'ISIS che è molto forte, abbiamo visto come si autofinanzi, quante armi abbia, però ci sono anche gli americani che continuano a bombardare con i droni le postazioni dell'ISIS, altri paesi che armano la resistenza, quindi quello che succederà è molto difficile da prevedere. Un accenno veloce alla Gazzetta che titola Rieccole con i risultati appunto di ieri degli anticipi, la Juve domina il Chievo, la Roma risponde. E poi quella che la Gazzetta definisce la rivoluzione Conte, perché sapete che il campionato adesso inizia, ma poi si fermerà perché gioca la nazionale. Ci sono i test con queste 2 partite con l'Olanda e la Norvegia. E Mario Balotelli, che è andato nel Liverpool, debutterà adesso, farà la sua prima partita. Ma in azzurro per ora Conte lo tiene fuori. La prima pagina di Libero ha invece una notizia completamente diversa, è una notizia scovata e riportata da Giacomo Amadori su una scuola islamica nel municipio di Roma. L'occhiello, molto, così, molto significativo, è porte aperte all'invasione, la polizia chiude la moschea abusiva, ma il PD, che in questo momento è al governo di Roma con il suo sindaco Ignazio Marino, dà la sala consiliare ai musulmani che indottrinano i bimbi sotto la foto di Napoletano. L'imam ammette: qui abbiamo anche degli estremisti. Il quartiere sembra una città araba. Tra l'altro, Libero continua la pubblicazione degli scritti di Oriana Fallaci. Oggi trovate un brano di un suo libro a pagina 4, intitolato L'Islam moderato è una frode, il Corano è il loro Mein Kampf. Il giornale titola Dopo il gelato l'aspirina. Serviva una cura shock, lo sblocco Italia non basta. Quindi critiche di questo genere in realtà abbiamo visto arrivano da molte parti, cioè tutti chiedono misure molto forti. Il problema è naturalmente che misure molto forti avrebbero bisogno di coperture altrettanto forti e il problema delle coperture resta. Abbiamo visto come il governo sia stato costretto a rimandare alcune misure come quelle sulla scuola proprio perché le coperture per ora non sono state individuate per alcuni provvedimenti. E poi c'è un intervento di Franco Abruzzo, che è l'ex presidente dei giornalisti lombardi, in difesa di Magdi Allam. Abbiamo parlato anche di questa vicenda nei giorni scorsi. Magdi Allam è ex vice direttore del Corriere della Sera, ora da qualche anno collaboratore del giornale, è stato musulmano per la stragrande maggioranza della sua vita, poi si è convertito al cristianesimo e ha scritto molti libri, ha firmato molti interventi molto duri contro il fondamentalismo islamico e adesso l'Ordine dei giornalisti lo ha addirittura accusato di islamofobia. È stato aperto un, permettetemi, surreale procedimento per appunto questa accusa. Il giornale l'ho detto anche ieri e lo ripeto anche oggi, è praticamente l'unico quotidiano che ne parla e non è giusto a mio parere, perché sicuramente è una questione anche di libertà di stampa e di opinione. In ogni caso, oggi Franco Abruzzo è intervenuto sul giornale appunto e dice che questo procedimento disciplinare sarebbe da archiviare, però vedremo invece come andrà a finire. Il manifesto a Mosca cieca, Mosca con la M maiuscola, e il titolo, il riferimento naturalmente è al fatto che Renzi ha ottenuto questa poltrona di Lady Pesk, tra virgolette, per Mogherini. Il polacco Tusk è a capo del Consiglio dell'Unione Europea, però Bruxelles resta divisa sul conflitto in Ucraina, e da qui appunto il titolo a Mosca cieca. Poi vi segnalo un intervento di Giuliana Sgrena, la giornalista, lo ricorderete, che qualche anno fa nel manifesto era stata rapita in Iraq e spiega che tipo di intervento secondo lei ci vuole, spiega anche, fa anche un excursus, molti non saranno d'accordo, però sicuramente un excursus dei passati interventi occidentali per scacciare i dittatori e le conseguenze che poi hanno avuto nel medio-lungo termine, quando magari scacciato il dittatore non si è riusciti a trovare una soluzione alternativa. Il Fatto Quotidiano, sempre molto critico con Renzi, Marchionne, basta gelati, Renzi salvato dalla Mogherini. Il titolo, l'accenno naturalmente è all'intervento di ieri di Marchionne al meeting di Rimini di cui abbiamo parlato, che però abbiamo visto non era tanto una critica a Renzi che mangia il gelato a Palazzo Chigi per prendere in giro l'Economist, ma all'Economist stesso e a tutti quelli che sono ancora dominati dai luoghi comuni sull'Italia. Invece Marchionne dice: certo, l'Italia è un paese che deve uscire dalla crisi, deve riformarsi, ma è anche un paese che in teoria non avrebbe niente da invidiare a nessuno, quindi tiriamo fuori un pochino di orgoglio e reagiamo a queste critiche. In primo piano. Ancora buongiorno, ancora buona domenica da Giulia Crivelli. Abbiamo visto le prime pagine dei giornali dominate da questa nomina di Federica Mogherini a ministro degli esteri dell'Europa, ma veniamo un po' alle pagine interne. Vi dicevo, il Sole 24 Ore ha un approfondimento sulle sanzioni decise ieri a Bruxelles. Tra le molte cose di cui si è parlato, oltre alle nomine, c'erano anche le sanzioni alla Russia per la questione ucraina, e Beda Romano, corrispondente appunto da Bruxelles, ci spiega come i leader riuniti a Bruxelles hanno dato mandato alla Commissione di varare altre misure che potrebbero riguardare i mercati dei capitali, l'energia, la difesa, la finanza e anche importazioni di prodotti di lusso come i diamanti e le vodka di lusso. Dal Corriere della Sera vi segnalo per alleggerire un po' una notizia che mi era completamente sfuggita, forse dovremmo ricordarcene tutto. Da oggi sono in regola, riguardo agli aspirapolveri, questa notizia, gli aspirapolveri a dieta di energia. Da oggi sono in regola infatti solo i modelli che consumano meno di 1600 watt. Non so cosa succede se uno ha in casa un aspirapolvere diverso che consuma di più. Comunque c'è, naturalmente sono i produttori che devono occuparsi di questo, che però hanno subito risposto: è inutile, perché in questo modo dovranno essere tenuti accesi più a lungo perché sono meno potenti e quindi forse alla fine il risparmio energetico non ci sarà. E poi vi segnalo, io ho trovato una storia bellissima a pagina 25 del Corriere della Sera, è una storia raccontata da Gaetano Cappelli e riguarda il quokka, che è un animale australiano, e noi che tendiamo sempre un po' a, insomma, noi esseri umani a guardare gli animali con i nostri occhi, sembra, viene definito l'animale più felice del mondo, perché se voi lo guardate effettivamente sembra che sorrida perennemente, rischia però di estinguersi soprattutto perché ha una passione per il pane che non gli fa molto bene. È un marsupiale, perché è in Australia, sapete che lì c'è questo... Tutti gli animali, come in molte isole, come in Madagascar, hanno poi delle caratteristiche uniche che sono rimaste confinate a quell'isola, quindi appunto anche lui, come il koala, è un marsupiale. Il Corriere della Sera ci racconta questa storia, che insomma è una storia, secondo me, che mette un po' di buon umore in domenicale, diciamo così. Dalla pagina della Stampa un approfondimento sulla che prende spunto dalla notizia di cronaca di quel tribunale che ha intervenuto laddove c'è un vuoto legislativo, cioè sulle coppie gay che hanno dei bambini. È una sentenza molto controversa, ma oggi la Stampa con Francesca Paci più che altro ci racconta, fa il quadro generale, ci racconta come in Italia ci siano 100.000 figli di coppie gay e che dopo la sentenza di Roma, per esempio, Francesca Paci ha parlato con due papà, la sentenza di Roma riguarda due mamme, perché appunto il problema, 100.000 bambini sono tanti ed è una questione di diritti, perché poi per esempio, non so, quando si va in una scuola, quando ci si presenta in una scuola, tutte quelle occasioni in cui i genitori devono presentarsi insieme dovrebbero avere una legittimazione, anche se sono appunto dello stesso sesso. Questo è quello che sostengono queste coppie gay. Dal Messaggero vi segnalo, come ogni giorno ha fatto questa settimana, un aggiornamento sulla vicenda di Ebola. Oggi scrive il Messaggero: l'allarme dell'Unione Europea e la Liberia vieta lo sbarco dei marinai. Ieri, tra le tante argomenti sul tavolo del vertice di Bruxelles, c'era anche l'epidemia di Ebola. Il Consiglio Europeo ha espresso preoccupazione. Ci saranno nuove risorse da Bruxelles e appunto la Liberia ha annullato i lasciapassare per le navi. C'è come sempre lo schemino che ci ricorda quanti sono i decessi, circa 1500, e invece il numero di casi, che sono un pochino più di 1000. Per ora i paesi coinvolti sono la Guinea, la Sierra Leone, Liberia e la Nigeria. E però c'è anche, secondo l'OMS, entro l'anno sono previsti 20.000 casi, quindi quasi 10 volte quelli che sono stati diagnosticati fino adesso. Dal Messaggero vi segnalo anche, trovate alcuni accenni anche su altri giornali, ma qui è l'approfondimento maggiore, un riassunto della riforma dei beni culturali. Così si cambia. Il ministro Franceschini ha illustrato la nuova struttura del Ministero appunto per i beni culturali, ha negato che ci siano dissensi con il Premier, i pareri dei soprintendenti saranno appellabili e una commissione risponderà entro 10 giorni. Trovate tutto l'approfondimento a pagina 21. Passiamo un po' agli approfondimenti culturali e un accenno veloce a una pagina dell'Avvenire, la 19, che si intitola Viva Babele e che prende spunto da un dialogo con il neurolinguista Andrea Moro, che sarà ospite al prossimo Festival Letteratura che inizia giovedì a Mantova e che ci spiega come sapere più lingue veramente stimola il nostro cervello. E il nostro cervello, dice, è programmato per il linguaggio, così come i nostri occhi sono programmati per vedere. Il problema sta nella varietà delle lingue, la vista è uguale per tutti, il modo in cui il linguaggio si esprime non lo è, si delinea un orizzonte spirituale, un orizzonte di libertà. E naturalmente il disegno è appunto la Torre di Babele, che è uno dei quadri più famosi di Peter Brueghel il Vecchio, un quadro del 1563 bellissimo che viene sempre evocato quando si parla di Babele. Passiamo appunto ai supplementi culturali, perché cominciamo naturalmente da quello del Sole 24 Ore la domenica, e come sempre vi leggo il breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Perdono. La citazione è di Mark Twain: il perdono è la fragranza che la viola lascia sul tacco che l'ha calpestata. Trovo assegnata a Mark Twain questa frase. Mi sorprende perché si è abituati al vetriolo delle battute ironiche di questo autore americano. Sta di fatto però che l'aforisma citato coglie un elemento decisivo del perdono, quello della capacità di trasformare la cattiveria del colpevole. Un proverbio orientale afferma che come l'ascia che taglia il legno di sandalo ne conserva l'aroma, così la spada che colpisce il martire profuma della sua santità. Per questo solo le persone grandi e coraggiose perdonano, come ha insegnato Cristo, e il loro atto travalica la stessa giustizia, iscrivendosi nel registro dell'amore. Vorrei aggiungere una nota ulteriore che ci sposta sul versante opposto, quello dell'aggressore. Se sentiamo ramificarsi nel cuore il veleno dell'odio, ricordiamo quest'altra frase di Hermann Hesse: quando odiamo qualcuno, odiamo nella sua immagine qualcosa che sta dentro di noi. E invece, sempre dalla prima pagina, la rubrica del nostro direttore, nostro del Sole 24 Ore di Radio 24, Roberto Napoletano, Memorandum, oggi si intitola I sogni svaniti di Elisa e il lavoro che nessuno cambia. Roberto Napoletano spesso prende spunto in questa rubrica o da incontri che ha fatto in giro per l'Italia o da lettere che riceve da lettori. Questa è di una ragazza giovane che, pur laureata, non trova lavoro nel suo campo, che è quello degli operatori culturali, e che quindi naturalmente è molto sconsolata perché naturalmente il lavoro è dignità, soprattutto quando magari uno ha fatto un percorso di studi, ha dei sogni, delle passioni. E allora, proprio di sogni, proprio con la parola sogni, parlando di sogni, conclude la rubrica Roberto Napoletano e scrive: quanti sogni dovranno ancora svanire per capire che prima riformiamo il mercato del lavoro e prima ritornano gli investimenti possibili e di conseguenza un po' di occupazione vera? Elisa e tutti quelli come lei, di avere in casa oggi e domani per dare a Elisa e a tutti quelli come lei le migliori opportunità. Ogni minuto perso pesa come un macigno di più sulla coscienza diffusa di chi dice di voler cambiare ma non fa nulla o quasi perché succeda qualcosa imperdonabile. Abbiamo detto appunto come, a proposito di lavoro, nei prossimi giorni dovrebbe finalmente vedere la luce il Jobs Act, cioè la grande riforma del lavoro che potrebbe dare un'ulteriore scossa all'Italia. La copertina, diciamo, però il pezzo principale del domenicale di oggi è un'anticipazione del libro di Salvatore Nigro, che è un critico collaboratore del domenicale, che si intitola Occhiali e altre inquietudini, e raccoglie recensioni, riflessioni, critiche su vari autori contemporanei o non. Il titolo dato a questo brano è Le lenti dell'immaginazione, con un focus sulla potenza letteraria degli occhiali, binocoli e telescopi. Questa era la copertina. Poi vi segnalo dall'interno, molto divertente questa cosa, il domenicale ha affidato a Antonia Paolini l'elaborazione di scritti di Leopardi. In questo caso lei ha usato lo Zibaldone, le operette morali, il discorso sullo stato presente degli italiani, per inventare una ipotetica lettera che Giacomo Leopardi avrebbe scritto alla Domenica per parlare di Italia. Consiglia la patria dal vostro Giacomo. Vi leggo soltanto una piccola parte. Sappiamo che le leggi senza i costumi non bastano. Se vogliamo che la voce dell'Italia sia ascoltata in Europa, converrebbe molta più attenzione anche all'idea di patria e di nazione. Su quanto sia necessario l'amor patrio e l'idea di nazione parlerò diffusamente, perché il confronto tra nazioni, l'articolazione nazionale e internazionale, insomma, ardisco di dire, mi è sempre parsa necessarissima, e questi tempi sembrano richiedere una particolare attenzione su tali argomenti. La lettura, il supplemento in edicola col Corriere della Sera, la copertina è di Robert Wilson, che è un regista, pittore e scultore. E poi vi segnalo all'interno due pagine scritte da Enrico Brizzi, intitolate Jack Frusciante non è più tornato nel gruppo. Ricorderete forse tutti, o insomma chi ha più o meno la mia età, questo libro che era uscito nel 94. Jack Frusciante è uscito dal gruppo, e tra l'altro in realtà il nome vero era John Frusciante, che era il chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, che a un certo punto aveva sconvolto tutti al massimo del successo, aveva lasciato il gruppo rock, ma il titolo poi nel libro non si parlava solo di questo, era una specie di giovane Holden all'italiana. E naturalmente poi da allora Enrico Brizzi ha fatto molte altre cose e qui un po' le racconta. Vi segnalo anche una bellissima intervista di Luca Mastrantonio a Erik Emanuel Schmidt, che parte dal suo ultimo libro Elisir d'amore. Il titolo dell'intervista è Sono un'elefantessa, credo nel desiderio e nel diritto diritto a morire, e ci racconta appunto anche come concepisce un po' il, perché poi questa è una storia d'amore, e quindi come concepisce come viene trattato in questo suo ultimo romanzo l'amore. La domenica invece della Repubblica è dedicata a Messner, che sapete compie 70 anni, il grande alpinista, ha inaugurato un nuovo museo che verrà anche ingrandito, e qui si racconta Messner ora scendo, scala montagne da quando era bambino, adesso che sta per compiere 70 anni, il grande alpinista torna sui suoi passi e si racconta. Dalle pagine interne del supplemento domenicale della Repubblica vi segnalo come sempre la Repubblica di Walter Siti, dedicata alla poesia. Oggi il poeta scelto è un grandissimo, Gabriele D'Annunzio, parte da uno scritto del 1935, da una poesia del 1935, e l'illustrazione come sempre di quel bravissimo giovane illustratore italiano che è Emanuele Fior, e Walter Siti ci dice: in questi versi, quasi certamente gli ultimi che ha composto, lo scrittore scatena una furia annientatrice contro se stesso. Sappiamo, Gabriele D'Annunzio, insomma, grandissimo poeta, ma anche uomo pieno di contraddizioni, come forse sono tutti i geni. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi. Ringrazio Filippo Aureggi in regia, che vi ha tenuto nei tempi. Una buona domenica a tutti. Comprate tanti giornali oggi, sono pieni di approfondimenti interessanti, al di là della cronaca, soprattutto per quanto riguarda i supplementi culturali. Ancora buona domenica da Giulia Crivelli.